l'Italia della pasta, l'Italia della pizza, l'Italia col suo popolo di sabato in pista, l'Italia che devasta, l'Italia che conquista. Qualcuno qui in Italia si rifiuta e dice basta, ma la gente non afferra con dei gusti terra terra, costruiti da qualcuno che dall'alto ci governa. Classifiche finte, finte le canzoni, e la gente le segue e poi compra sti coglioni. Migliaia di dischi venduti e facce più contente, senti sto gran pezzo profondo e struggente, denso di significati e liriche profonde, danzano le streghe di Capri. Il problema non è solo la radio, anche nel video si trova l'incubo spaventoso. Sveglia il mio istinto piromane e vedere Giorgia, ma che quel coglione del non giovane. Fenomeni da baraccone, un film immagine su facce di merda disperse nella voragine, tutte pagine di un libro che nessuno aprirà mai, perché tra un paio d'anni torneranno nella RAE. Alla radio non c'è niente di decente, in TV sempre lo stesso ambiente, tanto cosa gli importa alla gente, la merda che si sente è la stessa che c'è niente. Alla radio non c'è niente di decente, in TV sempre lo stesso ambiente, tanto cosa gli importa alla gente, la merda che si sente è la stessa che c'è niente. Giovanotti, il capo della banda, se vuoi essere dei nostri devi fare domanda, ma l'ufficio di collocazione, la mia opinione è che DJ Francesco debba trovarsi un'occupazione, come fanno i molti quando le cose non sono sublimi, come Udini farò sparire pure Angelini, gente del cazzo che non merita il mio appoggio, a sfregio, non che non vado adagio, come Biagio, peggio, di adesso fallimenti più che certi, Costanzo De Filippi e la magica Orietta Berti, che insieme a Patti Pravo hanno più secoli di Cristo, e di musica ne sanno quanto parli dei Flintstones. La musica è un fatto sociale, una moda, non piace ciò che è bello ma piace ciò che è in voga, piace ciò che piace alla gente più inserita, nel gruppo in cui si bazzica e si vive questa vita, chi fa musica lo sa e sì, se ne approfitta, la roba che c'è in giro è tutta roba già sentita, tanto chi se li ricorda i pezzi di vent'anni fa, il primo figlio di papà fa su e li rifà, ma alla fine se è così è solo colpa nostra, siamo un popolo di analfabeti che si prostra, non vi lamentate se non c'è poesia e arte, tenetevi DJ Francesco, ve lo meritate. Portando la mano, segui il tuo capitano. Alla radio non c'è niente di decente, in TV sempre lo stesso ambiente, tanto cosa gli importa alla gente, la merda che si sente è la stessa che c'è in mente. Alla radio non c'è niente di decente, in TV sempre lo stesso ambiente, tanto cosa gli importa alla gente, la merda che si sente è la stessa che c'è in mente. E queste rime come frecciate al cuore fanno male, industria musicale se ne può andare a cagare, il talento quanto vale? Zero se non puoi pagare, quindi torno ad ascoltare, a meditare in pace. Sì, mi piaceva Slim Shady, Slim Shady, adesso quando sento quella voce solo sputi, i media come re e Mida della storiella, ma ogni cosa che toccano sanno tramutarla in merda. Icone per l'Italia e per i nuovi borghesotti, Liga, Vasco, Eros Ramazzotti, li vedo meglio un benzinaio con la tuta addosso, Mazzini, Carboni, Venditti dentro al cesso, grazie al TV, All Music e la radio, la gente ormai sta in uno stadio senza più rimedio, pop star, boy band, bambine maggiorate, plagi, furti e canzoni copiate. Sono rime che scrivo dal vivo, piani che scogito, smaschero scemi di merda con bombe all'idrogeno. Ricordi quando è uscito Ferro, fenomenale, il nuovo Archelli, grazie a cazzo è copiato la strumentale. Did you ever think avresti fatto fessi, milioni di italiani che ora comprano i tuoi dischi, ma rischi linciaggio, preso in ostaggio da un numero crescente di b-boy che fanno traccio al pubblico pudore, alla pubblica decenza, come me ne Guzzi e i suoi pezzi di pura merda. Potessi sta con lui, me ne potrebbe dire quattro. Lo sai che han detto che ho copiato un gruppo polacco? Che smacco, continuo a sputa fuoco su sti tali, in culo multinazionale ed artisti italiani. Non moto insulto, mi esalto, coglione, perché sono lo straniero della mia nazione.